Ciao tesoro, sono a casa. Oh tesoro, ma chi ti ha legata così? Ah, i ladri! Ma fa qualcosa, no? Imbranato! Cosa faccio? Sì! Mi guardo in pace la partita, Cogli l'attimo! Con Marzo Fiat, su Panda 600 punto multiple e marea, supervalutazione dell'usato che vale zero fino a 3.100 euro, cioè 6 milioni di lire. Cogli l'attimo!